giornale radio del Friuli Venezia Giulia. A Trieste un uomo di 32 anni è stato arrestato in applicazione del cosiddetto codice rosso per aver minacciato pesantemente la sua ex compagna e l'attuale fidanzato. Presentata denuncia alla polizia, è stato eseguito un arresto differito allo scopo di proteggere la donna. Inflazione fredda, stabile l'andamento dei prezzi secondo la rilevazione diffusa oggi dagli uffici di statistica dei comuni di Trieste e Udine. Rispetto al mese precedente, a gennaio sono aumentati dello 0,2% a Trieste e dello 0,3% a Udine, posizionando l'inflazione tendenziale annua all'1,7% a Trieste e all'1,2% a Udine. Rimborsi Coopca, una nuova tranche in via di pagamento agli ex soci della cooperativa carnica. Questi ristori si aggiungono ai fondi già versati e che avevano permesso ai risparmiatori di recuperare quasi il 90% dei soldi persi. Sindacale, vanno verso un possibile sciopero i circa 40 lavoratori del rotolificio bergamasco, la RB di Maiano. Nei precedenti confronti con l'azienda, il cui fatturato è in forte crescita, la proprietà aveva respinto le richieste di premi salariali, dell'apertura di una sala mensa e della corretta classificazione del personale. Relazioni internazionali, dopo scuola, miglioramento delle competenze motorie e percorsi per il benessere, punta su questi aspetti il bando istruzione della Fondazione Friuli, che mette a disposizione complessivamente 600.000 euro. Considerato uno dei più importanti scrittori spagnoli contemporanei, il più venduto al mondo fra gli autori del suo paese, Arturo Pérez Reverte sarà il protagonista del Festival Dedica 2024, oggi la presentazione della 30ª edizione. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Lara Zani e Antonio Cagliazza. A Trieste un 32enne è stato arrestato dagli agenti della squadra volante per gravi minacce all'ex fidanzata. Nei giorni scorsi la donna aveva fatto intervenire la polizia sul posto di lavoro, dove l'uomo l'aveva raggiunta offendendo lei e l'attuale compagno, ma dileguandosi prima dell'arrivo degli agenti. Aveva quindi formalizzato una denuncia in questura, raccontando condotte e comportamenti dell'uomo che nel tempo le avevano provocato uno stato di disagio e di angoscia, costringendola a cambiare le proprie abitudini. Successivamente la donna ha integrato la denuncia fornendo messaggi, screenshot e file audio dal contenuto intimidatorio e denigratorio inviati dall'uomo. In alcuni messaggi l'ex fidanzato dichiarava di comprendere tutti gli autori di femminicidio e affermava che non aveva nulla da perdere, che doveva farsi rispettare e che sarebbe stato disposto a compromettere la propria vita pur di vedere la donna sottoterra. In base alla recente legge, il cosiddetto codice rosso, che ha introdotto l'arresto differito in flagranza entro 48 ore dal fatto, l'uomo è stato rintracciato e portato in carcere per tutelare l'incolumità della donna ed evitare la reiterazione di comportamenti violenti e aggressivi. L'economia è stato convocato per il 12 marzo il tavolo ministeriale sugli esuberi all'Electrolux. La decisione è stata annunciata poco fa dal ministro per i rapporti col Parlamento Luca Ciriani al termine del tavolo tecnico sul settore degli elettrodomestici riunito a Roma al Ministero per le Imprese e il Made in Italy. Inflazione, diffusi stamattina i dati di Trieste e Udine per il mese di gennaio, andamento dei prezzi sostanzialmente stabile. Sia a Trieste sia a Udine il dato complessivo sull'inflazione rimane stabile e dentro i limiti del fisiologico rispetto al mese precedente. Sostanzialmente costante anche la crescita dei prezzi di alimentari e bevande analcoliche, che sono poi quelli che fanno percepire più distintamente un aumento del costo della vita. In dettaglio, rispetto al mese precedente, i prezzi a gennaio sono aumentati dello 0,2% a Trieste e dello 0,3% a Udine. Rispetto a gennaio 2023, quindi nel giro di un anno, i prezzi risultano cresciuti dell'1,7% a Trieste e dell'1,2% a Udine. I dati, come detto, sono sostanzialmente in linea con quelli comunicati un mese fa. Per quanto riguarda gli alimentari, il tasso di inflazione congiunturale, cioè quello misurato mese per mese, si attesta all'1% a Trieste e allo 0,9% a Udine. Aumenti, come detto, sostanzialmente stabili e che portano ad una crescita media dei prezzi su questi prodotti nell'arco di un anno all'8% a Trieste e al 6,6% a Udine. bene. Da segnalare anche il leggero aumento su base mensile dei costi per abitazione, acqua, elettricità e combustibili, che crescono dell'1,5% a Trieste e dell'1,8% a Udine. Rispetto ad un anno fa, comunque, le bollette sono meno pesanti, del 13,3% a Trieste e del 14,8% a Udine. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. I ristori per gli ex soci della cooperativa carnica, effettuati o in via di versamento gli ultimi bonifici, rappresentano un ulteriore 4% per i privati prestatori. Rimborsi aggiuntivi per gli ex soci prestatori della società cooperativa carnica di consumo, COPCA. Negli ultimi giorni hanno ricevuto o stanno ricevendo una nuova tornata di ristori che si aggiungono ai fondi stanziati a suo tempo dalla Giunta regionale e dall'Alleanza 3.0. Risorse che avevano permesso ai risparmiatori di recuperare quasi il 90% dei soldi persi. Gli ultimi bonifici rappresentano un ulteriore 4% per i privati prestatori, un po' meno per le banche e i fornitori. Si tratta di soldi aggiuntivi recuperati grazie ai cosiddetti realizzi della procedura concorsuale, ovvero vendita di terreni, fabbricati, aziende e realizzi di crediti o possedimenti COPCA. Entrate extra per circa 1,5 milioni di euro che vanno a sommarsi ai 32.700.000 euro già distribuiti in passato dalla procedura in essere presso il Tribunale di Udine, indica il liquidatore giudiziale, il commercialista Ivan Ionia Pratt, per un totale di circa 34,2 milioni di riparti finora eseguiti. In futuro potrebbero essercene ulteriori a seconda degli esiti delle sentenze in Corte d'Appello di Trieste, dove sono ancora aperti procedimenti sulla responsabilità nei confronti degli ex amministratori. In totale il passivo COPCA dopo il crack di fine 2015 è stimato intorno ai 55 milioni di euro. Il Friuli Venezia Giulia è stata la prima regione italiana a istituire un fondo di garanzia per i risparmiatori delle cooperative. Per gli oltre 3.000 soci che avevano prestato soldi, i ristori in totale, tra fondi regionali e quelli recuperati dalla vendita di asset, alla fine arriveranno a sfiorare la totalità delle somme impegnate. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Diamo uno sguardo al tempo, cielo da nuvoloso ha coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 12,5 gradi, a Gorizia 11,5 gradi, a Udine e Pordenone 10 gradi, a Tolmezzo 5,5 gradi, a Forni di Sopra 2 gradi alle 10, Tarvisio 6 gradi, Piancavallo 3 gradi, Sappada 1 grado, sul Monte Doncolano e sul Monte Lussari meno 1,5 gradi, a Lignano 11 gradi, a Grado 12 gradi. Il cielo oggi è coperto su tutta la regione, ma la svolta nel meteo è prevista per la giornata di domani, quando si registreranno le nevicate più intense nella zona montana di tutto l'inverno. Sentiamo il previsore dell'ARPA, Gabriele Fasano. Nella giornata di domani avremo il culmine di una perturbazione atlantica che si sta già avvicinando oggi alla regione, portando un flusso molto umido da sud-ovest in quota e anche scirocco che inizierà a soffiare dal pomeriggio sera di oggi, soprattutto sulla costa. Nella giornata di oggi quindi ci aspettiamo già qualche precipitazione dal pomeriggio, delle piogge che saranno deboli o moderate su pianure costa, invece precipitazioni un po' più abbondanti già sulla zona montana, specialmente verso le Prealpi Giulie, con quota neve che sarà a circa 1.300-1.500 metri sulle Prealpi, un po' più bassa, circa 1.100-1.300 sulle Alpi. Domani appunto invece avremo il culmine della perturbazione con delle precipitazioni che saranno localmente molto intense su tutta la zona montana, invece piogge abbondanti o intense su pianure e costa. Le nevicate saranno intense in quota, la quota neve sarà attorno ai 1.300-1.500 metri sulle Prealpi, più bassa sulle Alpi fino a circa 1.000-1.300 metri, con però probabilità di neve piuttosto alta anche nel pomeriggio a Tarvisio e in generale sopra i 1.200-1.300 metri sulle Alpi, probabili nevicate davvero ingenti, probabilmente le più intense di questa stagione invernale. In più soffierà appunto vento forte sia in quota da sud-ovest ma anche e soprattutto scirocco nei bassi strati, scirocco che sarà anche forte sulla costa e potrà portare probabilmente mareggiate, specialmente sulla costa tra Lignano e Grado, poi libeccio invece in serata, quindi non escluso anche una mareggiata, anche se con minore probabilità, sulla costiera triestina. Invece pare meno probabile, ma non è comunque esclusa, la possibilità di acqua alta. A Maiano verso lo sciopero i dipendenti del rotolificio bergamasco, la RB, che riuniti in assemblea hanno votato a larga maggioranza l'affidamento della protesta ai sindacati. L'assemblea, alla quale ha partecipato quasi il 60% degli aventi diritto, era stata convocata dopo l'incontro con l'azienda del 2 febbraio nell'ambito delle procedure di raffreddamento. In quella circostanza la proprietà aveva respinto le richieste della RSU per un accordo che vedesse l'introduzione di un sistema di premi e della mensa aziendale, la corretta classificazione per tutto il personale e altri temi tra cui comportamenti discriminatori. Lo stato di agitazione era stato proclamato già a dicembre, dopo il licenziamento di un lavoratore iscritto al sindacato e componente degli organi dirigenti della SLC-CGL di Udine. Alla RV non è mai stata fatta contrattazione di secondo livello e i sindacati puntano a un accordo che riconosca il contributo dei lavoratori ai buoni risultati dell'azienda. L'impresa, sottolineano, non si è mai fermata neanche durante l'emergenza pandemica ed è leader nazionale nei prodotti cartotecnici in rotolo. Il fatturato è passato dai quasi 27 milioni di euro del 2021 ai 36 milioni del 2022. Lo stabilimento di Maiano dà lavoro a una quarantina di dipendenti. Avvio lavori i primi di giugno del 2024, termine a dicembre 2025, collaudo e consegna dell'opera al Ministero della Giustizia entro giugno 2026. A comunicare l'agenda aggiornata del cantiere del nuovo carcere di San Vito al Tagliamento da 300 posti, acquisita direttamente dal Vice Ministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami, è l'onorevole pordenonese Emanuele Loperfido. Il destino del carcere si intreccia con quello del castello che lo ospita. Dopo avere monitorato l'assegnazione delle risorse per far avviare e realizzare il cantiere, con grande lavoro di squadra dei rappresentanti di Fratelli d'Italia con il ministro Ciriani e il governo Meloni, la nostra azione di supervisione si concentra, spiega Loperfido, sul rispetto dei tempi previsti per la realizzazione della struttura di San Vito, avviando in parallelo il ragionamento per la riqualificazione del castello di Pordenone, per cui è stata presentata nei giorni scorsi la petizione che ha coinvolto tutto il territorio e trasversalmente le diverse forze politiche. Il castello dovrà essere un nuovo fulcro della nostra città e sarà necessario coinvolgere il maggior numero possibile di attori nell'intera operazione. Ancora cronaca, la polizia in servizio al Trieste Airport di Ronchi dei Legionari nei giorni scorsi ha arrestato un cittadino somalo di 22 anni. L'uomo, in procinto di salire su un volo diretto a Dublino, in Irlanda, ha esibito agli agenti, addetti ai controlli di frontiera, una carta d'identità belga contraffatta. Il 22enne è stato tratto in arresto e portato nel carcere di Gorizia. Bando istruzione da 600.000 euro dalla Fondazione Friuli per sostenere progetti di fondazione e ricerca. Vediamo chi può accedere ai finanziamenti e come. Relazioni internazionali, dopo scuola, miglioramento delle competenze motorie e percorsi per il benessere sono i quattro pilastri su cui si regge la nuova edizione dei bandi istruzione 2024 della Fondazione Friuli, rivolta agli istituti di primo e secondo ciclo dell'ex provincia di Udine e Pordenone, illustrati a Palazzo Antonino Singer alla presenza dell'assessore all'istruzione Alessia Rosolen. Bandi che intendono sostenere i progetti di formazione e ricerca, cospicua la linea di finanziamento della Fondazione che vede come partner un primario istituto bancario e che ha come dotazione un fondo di 600.000 euro. Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione Friuli. La novità di quest'anno è che abbiamo cercato di collegare questi quattro pilastri con un filo rosso che possa riunire e dare un senso caratterizzante a tutto il bando. L'impegno che vorremmo risultasse dai progetti che riceveremo è l'impegno verso la costruzione delle relazioni. Abbiamo bisogno che i ragazzi abbiano le opportunità di ricostruire le relazioni che si sono perse purtroppo con la pandemia. Uno sguardo sempre verso i ragazzi, verso i giovani. Verso i giovani, ma verso tutto il sistema scolastico dal quale riceviamo sempre dei progetti che sono spesso anticipatori di attività che poi si consolidano. Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 27 marzo dalle scuole sia pubbliche che paritarie delle due ex province e varranno per progetti da sviluppare nell'anno scolastico 2024-2025. Udine, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Dopo la birra senza alcol, ora arriva il vino senza alcol, un nuovo prodotto che inizia ad avere consumatori anche in Italia, benché le aziende vitivinicole del nostro territorio non abbiano ancora avviato una produzione a livello locale. In Nord Europa già spopola, complici le tendenze giovanili e una maggiore consapevolezza sugli stili di vita. È il vino senza alcol, cioè con una percentuale alcolica non superiore allo 0,5. Un prodotto che sta iniziando a trovare fette di mercato anche in Italia, dove però non può essere commercializzato con questo nome. La Comunità Europea non ha ancora regolamentato la produzione, pertanto valgono le legislazioni dei Paesi membri. E per quanto riguarda l'Italia, dobbiamo rifarci alla 162 del 1965, che definisce che cos'è vino. Il prodotto della fermentazione alcolica del succo d'uva avente una gradazione alcolica superiore a 8 gradi. Questo non vuol dire che poi non venga effettivamente prodotto. Ad esempio in Italia iniziano ad esserci delle produzioni di vino dealcolato che però viene commercializzato sotto la denominazione di bevanda a base di vino dealcolato. Nella nostra regione non ci sono ancora sperimentazioni di questo tipo, anche perché i produttori locali continuano a rivolgersi soprattutto al mercato interno. Ma che qualità ha il vino senza alcol? Togliere una componente così importante, che è la seconda in termini quantitativi dopo l'acqua nella bevanda, non può non lasciare chiaramente delle tracce. Quindi possiamo dire che sono dei prodotti simili che in qualche modo vengono aggiustati tecnologicamente, magari più originati da vini rossi piuttosto che da vini bianchi, perché i vini bianchi, essendo più leggeri, più semplici da un punto di vista compositivo, risentono maggiormente di questa pratica di dealcolazione. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Lo scrittore spagnolo Arturo Pérez Reverte sarà il protagonista dell'edizione 2024 di Dedica, oggi a Pordenone la presentazione. Dedica comincerà il 16 marzo, una settimana che ruota tutta attorno a un autore, come prevede la formula originale di questa manifestazione. Quest'anno è stato scelto uno spagnolo, Arturo Pérez Reverte, lo spagnolo che vende di più nel suo paese e all'estero, di formazione giornalista, ma poi si è dedicato esclusivamente alla letteratura, in particolare al romanzo storico, e questa sua natura ibrida è proprio probabilmente la sua forza, metà tra la realtà e la finzione. Chiediamo un parere su questa scelta a Claudio Cattaruzza, che è il curatore proprio di Dedica. Beh, Arturo Pérez Reverte, la caratteristica principale, essendo un erudito, una sua grande passione per la storia e per le vicende umane in generale, e quindi ha adattato quello che è la storia con la S maiuscola a situazioni di storie che si incastrano con quella storia più grande e reale, storie di finzione, che però hanno sempre agganci e situazioni che possono in qualche modo far riferimento all'attualità. Quindi anche se sono ambientate in tempi passati, diciamo, mantengono questi agganci con l'attualità. Musica, teatro, cinema, fumetti, non è stato difficile costruire una settimana attorno a Pérez Reverte? Beh, diciamo che è un autore estremamente prolifico, che ha spaziato in diversi ambiti, tra l'altro dai suoi libri sono stati ricavati numerosissimi film e anche importanti serie TV, per cui la declinazione è stata più facile che non in altre situazioni, diciamo, pur nella complessità e anche nella selezione dei vari materiali. Pordenone, Antonio Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Un monumento funerario di epoca romana è stato ritrovato a San Vito al Torre, nel Gretto del Fiume. Si tratta di un manufatto in calcare che era quasi completamente sommerso dalla ghiaia ed è stato fortunatamente individuato da un cittadino, Ervino Silvestri, che l'ha segnalato alle istituzioni. La notizia è stata diffusa dalla soprintendenza del Friuli Venezia Giulia al recupero avvenuto. Alle operazioni, dirette dall'archeologa Serena Di Tonto, erano presenti i carabinieri del Nucleo Tutela Beni Culturali, il commissario straordinario del comune di San Vito al Torre e volontari della Protezione Civile, che hanno dato il supporto logistico a una ditta specializzata. L'ara funeraria pesa oltre 7 tonnellate, è stata trasportata in un luogo di ricovero temporaneo dove potrà essere pulita e restaurata in vista di una possibile esposizione futura. Sarà dedicato a George Gershwin e ai 100 anni del capolavoro Rapsodia in blu, il concerto inaugurale dell'anno accademico del Conservatorio Tomadini di Udine. Un evento che coinvolgerà sul palcoscenico del Teatro Nuovo di Udine oltre 70 musicisti, con i giovani strumentisti del conservatorio impegnati fianco a fianco con i loro insegnanti nelle file dell'orchestra e della big band del Tomadini. Dirigerà il maestro Walter Sivilotti, che insieme a Glauco Venier firma gli arrangiamenti delle pagine musicali in programma, con l'apporto solistico del pianista Roberto Cappello. Alle 18.30 al Giovanni da Udine abbiamo intervistato il direttore del conservatorio, Beppino Delle Vedove. Cerimonia del concerto per l'inaugurazione dell'anno accademico è comunque un momento importantissimo per la nostra istituzione. È un'occasione soprattutto per presentare alla nostra città, al territorio, ma anche alle tante realtà pubbliche e private, l'attività che verrà intrapresa durante questo anno accademico, l'attività che è volta soprattutto alla valorizzazione dei nostri studenti, che sono comunque oltre 400, e che partecipano alle varie attività didattiche, di ricerca e di produzione, e affiancati da docenti preparatissimi, motivati, con la voglia di trasmettere il bello di fare musica, però in maniera professionale. E un'esperienza umana e formativa che poi servirà loro non solo in campo musicale, ma anche e soprattutto nella vita di ogni giorno. Gli allievi sono il nostro futuro e il futuro musicale migliore del nostro territorio e sono appunto i gioielli della nostra istituzione. Il programma che abbiamo proposto mette appunto al centro dell'attenzione i dipartimenti pop rock e jazz rappresentati dai rispettivi maestri Sivilotti e Venier, ma sul palco ci sarà una compagine orchestrale al completo per un coinvolgimento totale di tutti i dipartimenti del conservatorio, ed è la prima volta che succede questo nell'ambito di un concerto. Inoltre, diciamo, la scelta di questo importante pezzo darà agli studenti anche l'opportunità di collaborare con un artista di carattere internazionale, il pianista Roberto Cappello, vivendo un'esperienza musicale, secondo me, eccezionale. Dei vari anniversari di quest'anno, l'aver scelto Gershwin rappresenta, secondo me, molto di più che un semplice ricordo di un attore. Perché? Perché è un repertorio che comunque non è molto conosciuto né valorizzato, e quindi anche per questo la scelta di questo programma, oltre chiaramente alla ricorrenza dei 100 anni dalla prima esecuzione della Rapsodia. Altri spettacoli di stasera: Umberto Orsini e Franco Branciaroli calcano le assi del Teatro Gustavo Modena, impegnati nella commedia I ragazzi irresistibili di Neil Simon. Lo spettacolo, diretto da Massimo Popolizio, va in scena a Palmanova come unica data per il circuito ERT, stasera alle 20.45. Antonio Catani e Tiziana Foschi saranno protagonisti in 3 sale del circuito ERT con Ma non avevamo detto per sempre? La commedia, scritta da Tiziana Foschi e diretta da Antonio Pisu, sarà oggi al Teatro Verdi di Maniago, domani all'Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento e sabato 24 febbraio al Teatro Plinio Clabassi di Sedegliano. Tutte le serate avranno inizio alle 20.45. Convegno speciale per commemorare il tifoso della Triestina Stefano Furlan a 40 anni dalla scomparsa e la stagione 1982-83. Ospiti della serata saranno i giocatori alabardati che hanno reso quella stagione indimenticabile. De Falco, Strocchelli e Costantini saranno presenti per raccontare le storie di quei giorni d'oro e ricordare Stefano Furlan. Sul palco saranno esposte le maglie storiche. Alle 18 nella sala Luttazzi del magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste. Sono le 12:53 minuti e 50 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata a questa edizione da Carlo Morello, Vittoria Protti e Andrea Fontanot. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. La nostra informazione torna in televisione col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione da Lara Zani e da Antonio Cagliazza. Buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.